rischia di coinvolgere i più alti vertici dell'amministrazione USA il processo al cacciatore di taglie Jonathan Kitta Idima. Questa vecchia professione sta infatti vivendo una seconda giovinezza grazie alla dottrina della guerra al terrorismo adottata da Washington. E proprio come nel Far West, gli altipiani dell'Afghanistan e del Pakistan, dove si sospetta si nasconda Osama Bin Laden in persona, sono diventati meta di cacciatori di taglie senza scrupoli. Questo crescente fenomeno rischia di coinvolgere la stessa Casa Bianca, già scossa dallo scandalo torture in Iraq e in Afghanistan, e deve rispondere ad oltre 90 casi di abusi inflitti dai propri militari. Tutto è iniziato i primi di luglio, quando è stata trovata una prigione privata nel distretto di Carter Parwan, a Kabul. 8 i prigionieri trovati al suo interno, 3 dei quali legati al soffitto per i piedi. Tutti e 8 hanno subito maltrattamenti, sono stati picchiati e sono stati tenuti senza acqua né cibo per ottenere informazioni. In questo ambito, lo scorso 5 luglio sono state arrestate 7 persone, 4 afghani e 3 americani, Edward Caraballo, Brent Bennett e il capo del gruppo Jonathan Kitta Idima, meglio conosciuto come Jack. Il processo, che vede gli imputati accusati di tortura, rapimento e lesioni con arma da fuoco, si è aperto mercoledì e si preannuncia tutt'altro che facile. Mentre i vertici militari statunitensi dicono di non aver avuto nulla a che fare con Idem e la sua cricca, il protagonista di questa storia afferma il contrario. Abbiamo lavorato per il gruppo antiterrorismo degli USA, per il Pentagono e altre agenzie federali. Abbiamo le prove. Parlando ai giornalisti, prima dell'inizio del dibattimento, Idima ha detto di essere stato abbandonato solo ora dal governo americano, ma di aver lavorato per il Pentagono e di essere stato regolarmente in contratto, tramite fax, mail e telefonate, con l'ufficio del segretario alla difesa Donald Rumsfeld. Inoltre, Idima ha difeso a spada tratta il suo operato, dichiarando di aver prevenuto diversi attacchi, fra cui quelli ai ministri dell'educazione e della difesa afghani e tentativi di far saltare la base USA di Bagram e quella NATO di Kabul con delle autocisterne. A parlare in fase dibattimentale sono invece stati due ex detenuti presenti in aula. Secondo quanto riportato dalla BBC, Sherjan ha dichiarato testualmente: «Sono stato portato via da casa una mattina, incappucciato, poi mi hanno rotto una costola con il fucile, mi hanno versato addosso dell'acqua bollente». Ghulam Shaki, l'altro testimone, ha invece raccontato di essere stato appeso a testa in giù per lunghi periodi durante tutta la sua prigionia. Chi ha ammesso di aver avuto contatti con Idima è invece il maggiore John Zeitman, portavoce delle forze della coalizione. Ingannati dalle divise e dall'approccio professionale degli imputati, dei contatti tra Idima e le forze di peacekeeping presenti nel paese ci sono state. Il 3 maggio un detenuto è stato consegnato dal gruppo di mercenari alla base di Bagram. Ma dice il maggiore Zeitman, ciò non significa che i militari fossero a conoscenza delle attività di Idima, né che gli sia mai stato richiesto di ricercare presunti terroristi. Il processo riprenderà tra 2 settimane per consentire alla difesa di prepararsi. Mercenari al servizio del Pentagono, cacciatori di taglie che siano, i 7 imputati rischiano oltre 20 anni di carcere, ma la storia di Idima potrebbe essere solo la punta di un iceberg. Dopo gli scandali usciti dal carcere di Abu Ghraib e le inchieste sui maltrattamenti delle carceri afghane, adesso è il momento del clamore intorno agli abusi commessi da bounty hunters, cacciatori di taglie in cerca dell'occasione della vita. Questo fenomeno, legato alla dottrina della lotta al terrorismo adottata dall'amministrazione Bush, non fa che mettere nuovamente l'accento sul timore di una degenerazione culturale e sociale senza precedenti. Mentre Al-Qaeda continua i suoi attacchi e lancia strali contro i paesi coinvolti nel conflitto iracheno, la difficile situazione in cui versa l'Afghanistan e la condizione di guerra aperta in Iraq rendono ancora più evidente come la Pax americana imposta a suon di bombe vada assumendo sempre più i contorni di un'effimera illusione. Monica Losciale, World News per Amisnet.